queste cose. È bene dirlo che bisogna sentire cuore denari e chiamare, perché un aiuto arriva sempre. Debora ride perché guarda come sono seduta. Beh, anche io non è che sia proprio un esempio. Predico bene, razzolo non male, malissimo. Ma non nascondo neanche la voglia che ho di dare un posto decente a quel figlio che avrò. Dottoressa, aspetti che Nicoletta mi è scomparsa sotto il tavolo. Un attimo, la ritiriamo su. Muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia, muoviti, muoviti. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Debora Rosciani. Legò Prometeo dai vari pensieri con inestricabili lacci, con legami dolorosi che a mezzo di una colonna poi avvolse. E sopra gli avventò un'aquila, ampia d'ali, che il fegato gli mangiasse immortale, che ricresceva altrettanto la notte quanto nel giorno gli aveva mangiato l'uccello dalle grandi ali. Teogonia, 521-525. Così Esiodo descrive la scena del mito di Prometeo, un mito che possiamo rileggere anche in chiave moderna, perché ciascuno di noi ha la sua aquila, possiamo chiamarla stress, sì, preoccupazione, che divora le nostre energie, che sorprendentemente per la medicina cinese risiedono proprio lì, nel fegato, la sorgente prima di tutte le energie, il grande trasformatore capace di rigenerare di continuo nonostante le aggressioni. Ma anche la medicina occidentale sposa in parte queste idee. Il fegato è un vero e proprio laboratorio chimico in cui hanno luogo centinaia di reazioni che servono a produrre o trasformare sostanze utili all'organismo, ma anche a neutralizzare le sostanze tossiche. Insomma, è un laboratorio instancabile, controlla, trasforma, smista, trasporta, pulisce, non si lamenta mai, se non proprio quando non ce la fa proprio più. Per questo noi tendiamo a trascurarlo e senza saperlo gli rendiamo la vita difficile. Un dato può aiutarci a riflettere: il nostro paese è al primo posto a livello europeo per numero di casi di patologie croniche del fegato. Allora oggi insieme al nostro esperto cercheremo di capire come preservare la sua salute e il suo benessere. È un organo unico, non solo perché è uno, quindi non solo per numero, ma soprattutto perché non esiste uno strumento capace di vicariarlo. Per questo motivo è fondamentale conservarlo il più possibile sano e funzionante. Quindi il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24. Iniziate a chiamare per prenotare i vostri interventi se avvertite qualche disturbo che pensate possa essere la spia di una sofferenza del fegato, o se a crearvi qualche pensiero sono i valori registrati nelle ultime analisi che vi sono state prescritte dal medico, oppure avete un po' la coscienza sporca, avete esagerato e pensate che il vostro fegato vi presenti il conto. 800 24 00 24. Tu ridi, eh? Rido perché non ho dei versi altrettanto belli come quelli che hai portato tu per presentare la parte di cuore, per presentare l'argomento di denari, anche se in realtà è un tema che qualche doloretto al fegato lo può dare. Può darlo. Allora, per quanto riguarda appunto i denari, dalle 11.45 inaugureremo anche il 2015 della nostra scuola di risparmio, un appuntamento con Investire Informatiche. Ogni giovedì esplora un aspetto, una notizia legata al mondo degli investimenti e del risparmio. E come ogni scuola che si rispetti, vi interroghiamo anche, per cui state attenti. Poi dalle 11.45 in avanti apriremo la nostra libreria a tutti coloro che si candideranno per rispondere alla domanda che faremo. Oggi parliamo di sicurezza nella proposta dei prodotti finanziari ai risparmiatori. Alcuni sono considerati poco comprensibili alla clientela finale. Scopriremo insieme a cosa bisogna fare attenzione e a quali attenzioni saranno tenute d'ora in avanti i cosiddetti intermediari finanziari, le banche. La Consob ha dato istruzioni precise, io proprio sotto gli occhi qua la raccomandazione dell'autorità di vigilanza sul mercato, per cui attenzione. 800 24 00 24. Vi è capitato di ricevere una proposta di sottoscrizione per un investimento sul quale non avete capito nulla? Proprio. Come vi siete comportati? Iniziate a segnalarci le vostre esperienze. Mi so magna del fegato e me lo magno ancora ogni volta che ripenso che tu sei la mia signora. Beh, è un gran lavoratore, instancabile, scrupoloso, non si lamenta mai, quando lo fa è proprio perché non ne può più, tende però a ingrassare e anche a ingrossare. Ha un caratterino tutto suo, gli salta spesso la mosca al naso, ma dicono che sia anche coraggioso. Ama la vita regolare ma non insipida, gli piacciono la varietà e la misura. Che ne dite? Che vi sembra? Vi assomiglia? Fatecelo sapere. Intanto io saluto il dottor Stefano Fagioli, direttore dell'unità complessa di gastroenterologia ed epatologia e trapiantologia dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a te Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, dottor Fagioli, io ho provato a descrivere il fegato come se fosse una persona. Ci ho preso? Lei che lo conosce bene, che cosa aggiungerebbe? Ma intanto partirei dalle presentazioni, cioè dal suo nome. Sì. Ed è interessante perché, ad esempio, nel sassone antico la parola liver deriva dalla parola lifere, che riporta al termine life, vita. E questo sottolinea la forte relazione tra fegato, salute e vita. E inoltre un aspetto interessante è che veniva conferito all'intensità del colore del fegato un forte potere semantico, cioè il lily liver, il fegato bianco, pallido, era sinonimo di codardia, di un essere pavido. Se poi facciamo un passo più indietro nella storia, il nome latino del fegato era Iecur. E secondo la credenza in realtà era l'organo principe del nostro corpo, sede dell'intelligenza, dei sentimenti, delle passioni, in particolare dell'amore sensuale e anche dell'ira, quasi quello che è oggi ritenuto il cuore. Solo che Iecur è una parola diversa da fegato, oggi noi siamo abituati ad avere anche delle assonanze, tipo aver fegato significa aver coraggio, essere un soggetto biglioso significa irascibile, ma il passaggio da Iecur a fegato curiosamente inizia in cucina. Dai, questo perché gli antichi romani ingrassavano a forza gli animali con i fichi, per rendere il loro Iecur ficatum, cioè il fegato nutrito da fichi, un alimento assolutamente prelibato. Nel corso del tempo lo Iecur si è perso per strada e è rimasto il ficatum, che evidentemente fin dalle sue origini semantiche aveva un conto aperto con il troppo cibo. Poi per venire alla tua domanda, sì, se dovessi descriverlo come una persona o come un lavoratore, gli esempi possono essere tanti, però mi verrebbe in mente un lottatore, magari anche un peso massimo, però anche un operoso lavoratore, scegliete voi il tipo di lavoro dove c'è fatica ma anche qualità e tecnologia, per cui può essere un operatore in un grande termovalorizzatore oppure un operatore in una grande fonderia, ma anche un operatore in una fattoria allevamento all'aperto molto ipertecnologica. Se poi pensiamo al cinema, forse Highlander è l'esempio migliore. Allora provate a descriverlo anche voi da casa, 800 24 00 24, provate a descrivere il vostro fegato, oppure se il fegato fosse una persona, chi sarebbe secondo voi? Potete scegliere tra nel mondo del cinema e dello spettacolo, nel mondo della politica, però dottor Fagioli, anche questo lavoratore instancabile, efficiente, scrupoloso, ha i suoi punti deboli, credo sia importante conoscerle perché su alcuni di questi abbiamo un ampio margine di azione, possiamo, diciamo così, fare la differenza. Beh, restando in tema di personalizzazione, proviamo a considerarlo come se fosse un nostro caro amico. Sì. E siccome gli vogliamo bene, beh, forse è bene che lo sproniamo ad evitare gli eccessi, cioè i cibi troppo grassi, le troppe calorie, però da buoni amici cerchiamo di non soffocarlo con proibizioni assolute, un po' di felice trasgressione, certamente. Piace anche a lui. Ogni tanto concediamola, se no diventiamo un amico noioso da cui è meglio scappare. Poi quanto agli alcolici, va chiaramente e fortemente detto che sono il demonio per chi ha un fegato già alterato o già sofferente, però va altresì in maniera molto felice ricordato che in piccole dosi e di qualità, beh, sono addirittura non solo gradevoli ma positivi compagni di giochi e di salute per il nostro corpo, quindi come sempre moderazione. Poi, siccome l'alimentazione si accompagna anche al cercare di consumarle le calorie, non dimentichiamo da buoni amici di trascinare il nostro compagno a giocare, a correre, a fare dello sport, non investiamo la nostra amicizia con lui nel gozzovigliare solo davanti alla televisione, cosa che facciamo io per primo troppo. E poi invitiamolo anche a fare attenzione ad alcuni rischi che magari sempre come trasgressioni sono invitanti, però rischiamo di contrarre infezioni sgradite e spiacevoli per il nostro amico attraverso piercing o tatuaggi fatti magari in posti non controllati o da sconosciuti in qualche spiaggia esotica, o peggio ancora lasciarsi andare a rapporti non protetti magari con gli stessi sconosciuti. Insomma, diciamo che trattiamolo bene, perché nessuno vuole perdere un buon amico. Dottor Fagioli, allora mi pare di aver capito che ti piace questo fegato. È se molto fosse interessante. Una persona, insomma, sarebbe molto da considerare. È un profilo molto interessante, anche perché non si lamenta mai, no? Però mi chiedo, se avesse un malessere, quando è quel momento in cui ci deve venire un po' il sospetto che non sta a posto? Qual è quello scrupolo, appunto, che deve sollevarci l'attenzione, perché sappiamo di non averlo trattato in modo adeguato? Per esempio, non lo so, siamo nel periodo ancora postumo alle feste e certo, se è un po' sovraccarico e magari però lui non dice niente, che cosa dobbiamo fare? Mi pare che mi stai chiedendo una sorta di identikit della persona a rischio di far soffrire il suo fegato. E allora spingiamolo un po' l'eccesso, e lo stereotipo in questo senso è il protagonista di un film di qualche anno fa che si chiamava Super Size Me. È un curioso docufilm in cui un giovane si ingozza di cibi da fast food a colazione, pranzo e cena per un mese. Il risultato è che gli cresce il girovita, si indebolisce, si imbalsisce, si impigrisce, e di fatto i suoi esami del fegato si sballano in maniera significativa e lui finisce per avere un bel fegato grasso. Adesso che penso alle recenti feste natalizie, ho sospetto che devo io per primo mettermi in riga, perché ho lasciato un po' le briglie alimentari e con la scusa di riposarmi ho il sospetto che mi sono impigrito persino più del solito, per cui bisogna che comincio a darsi una mossa meglio di quanto io predichi, forse. Questa missione del Dutour, come si dice, ci piace molto. Comunque, dottor Fagioli, stanchezza, cattiva digestione, dolorini sul lato destro della pancia, sono tutte sintomi e segnali che ci fanno pensare a lui. Ma ti interrompo perché è una cosa importante questa da sfatare. In realtà io spero sempre che nessuno si aspetti di identificare un problema al suo fegato a seguito di sintomi specifici di mal di fegato. Mi spiego meglio, il fegato non fa praticamente mai male ed è sostanzialmente sempre silenzioso. Quando compaiono i sintomi classici della malattia di fegato, la cute gialla, il liquido che si raccoglie nell'addome e complicazioni ancora più importanti, quasi sempre è tardi, cioè il quadro è molto avanzato, per cui non fidiamoci dei segnali sintomatici che ci dà il nostro fegato, perché è un organo che ha una tale capacità di incassatore che quando arriva al knockout ci arriva in maniera piuttosto improvvisa. È tardi. E quindi quando si ha la coscienza un po' sporca, ad esempio, in accordo col proprio medico o a seconda del proprio profilo di stile di vita e di caratteristiche generali, qualche controllino con i classici esami del fegato non è sbagliato farlo, perché in realtà è più facile che arrivino da lì le prime spie. Vogliamo ricordarli quali sono questi esami classici che ci permettono di monitorare un po' la salute del nostro fegato? E poi leggo subito un messaggio che ci scrive Laura da Como. Certo. Diciamo che il primo che indica una sofferenza sono le transaminasi, che non sono altro che degli enzimi contenuti nelle cellule del fegato. Quando queste soffrono e si rompono, questi enzimi vengono liberati, quindi sono un segnale che delle cellule stanno morendo, si stanno rompendo. Poi ci sono degli altri enzimi come la gamma GT che ci dicono che mettiamo sotto lavoro metabolico un po' troppo il nostro fegato. Cosa vuol dire questo? La bilirubina che è lavorata dal fegato, e poi ovviamente colesterolo e trigliceridi, è bene che li teniamo d'occhio. Sempre. Diciamo che queste sono le cose più immediate. Allora, transaminasi, gamma GT, colesterolo e trigliceridi. La bilirubina? Sì, la bilirubina è importante perché viene di fatto lavorata e metabolizzata sostanzialmente solo a livello del fegato, e quando il fegato non funziona il livello di bilirubina si alza nel sangue e dà quel colorito giallo alle sclere degli occhi e in fasi molto avanzate di giallo intenso della cute, che è un segno di grave deterioramento del fegato. Allora, vogliamo andare a leggere il messaggio di Laura da Como, che ha fatto gli esami. Esatto. E come molti ascoltatori ci stanno chiamando all'800 24 0024. E proprio di bilirubina parla nel suo messaggio, perché lei ci racconta che in questo esame del sangue recente ha il colesterolo totale basso, ma nelle specifiche ha la bilirubina un po' più alta del doppio rispetto al limite. Cosa deve dirci questo risultato, dottor Fagioli? Allora, fare il medico per telefono è la cosa peggiore che un medico potrebbe fare, quindi in realtà questo non vuole essere un consulto, però se tutto il resto è normale, cioè se gli esami del sangue sono normali e quella è l'unica alterazione, e questo è un dato che si ripete, è più facile che sia un'alterazione congenita del metabolismo della bilirubina, una sindrome che porta il nome di un francese, si chiama Gilbert, mm-hmm. e quindi quella è la cosa più probabile. Poi ovviamente c'è un elenco intero di condizioni più o meno legate al fegato che possono giustificare questa alterazione, però io credo che una chiacchierata con il proprio medico sia utile, possa essere utile per cominciare a inquadrare la cosa e soprattutto conferire serenità qualora si tratti di una condizione di questo tipo, che ripeto è una condizione e non una malattia. Ecco, infatti l'SMS di Laura da Como ci ha permesso di conoscere la sindrome di Gilbert, e quindi abbiamo dato un'informazione in più. Come i nostri ascoltatori sanno, non si possono fare diagnosi telefoniche, ma dalle vostre telefonate possiamo avere delle indicazioni, delle rassicurazioni o degli inviti magari a consultare il vostro medico. Vincenzo ci chiama da Napoli all'800 24 0024, benvenuto e buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Che allora, ci racconta Vincenzo? Niente, io alla vostra domanda di prima, sì, che cosa paragonerebbe il fegato, io lo paragonerei a un triatleta. È un atleta che è capace di correre una maratona, fare 180 km in bicicletta, nuotare per 3 km senza mai fermarsi e senza stancarsi più di tanto, quindi sicuramente varietà e capacità di lavorare. E poi la domanda che volevo porre al medico: per chi pratica sport agonistico oppure pratica molto sport, che cosa fare per salvaguardare il più possibile il proprio fegato? Perché il dottor Fagioli ha detto che bisogna a questo amico farlo muovere un po', ma Vincenzo, che tra l'altro secondo me ha fatto un paragone magnifico, sì, questo del triatleta, dottor Fagioli, gli è piaciuto? Perché noi apriamo la libreria di Cuore Denari, a Vincenzo diamo subito un libro. Immediatamente. No, sicuramente, trovo che sia azzeccatissimo. E poi essendo uno sportivo vuole sapere, perché lo sport può, se magari fatto a livello amatoriale o quasi professionale, avere delle ripercussioni sul fegato? Ma direi dal punto di vista pratico no, in maniera molto secca, anzi tutto quello che ne arriva al fegato è positivo. Dopo è chiaro che gli eccessi sono validi per tutto, per cui se mi mettessi io a provare a fare una prova da triatleta probabilmente non sarebbe solo il mio fegato che ne soffrirebbe, ecco, quindi diciamola in questi termini. Vabbè, anche noi non è che siamo proprio pronte per il triathlon, direi, ecco. Però. Allora, dottor Fagioli, intanto noi invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci se avvertono qualche disturbo, che pensa possa essere alla spia di una sofferenza del fegato, o se a crearvi qualche pensiero sono gli ultimi dati registrati dalle analisi. C'è un dato che vorrei però sottolineare, perché gli italiani sono al primo posto a livello europeo per numero di casi di patologia cronica del fegato, che nella maggior parte dei casi possono durare molti decenni in modo subdolo, asintomatico, come ci ha spiegato lei, e poi presentare il conto quando la situazione è già compromessa. Ma allora che fare? Come evitare questo pericolo? Tutti noi naturalmente dobbiamo occuparci della salute di quello che abbiamo definito il nostro amico, ma chi deve prestare particolarmente attenzione? Chi segue una dieta troppo ricca, perché magari il fegato la patisce, ingrassa, ma sappiamo che il nostro fegato ad esempio può anche ingrossare. Queste due condizioni, fegato grasso e fegato grosso, sono due condizioni che sappiamo lo affaticano, perché lo costringono a lavorare sotto stress anche in condizioni di sforzo massimo, un po' come se in automobile si viaggiasse sempre con l'acceleratore al massimo. Ma che cosa succede? succede? Che cosa fa ingrassare il nostro fegato? Vogliamo cercare di tratteggiare magari un identikit della persona che dovrebbe parlare con il suo medico prima di avvertire quei famosi sintomi e segnali che lei si augurava nessuno di noi utilizzasse per iniziare ad occuparsi di lui? Certo. Ma allora, intanto cominciamo col dire che il fegato grasso di per sé non è una malattia a sé stante. Consideriamo che il fegato grasso è una condizione di sofferenza delle cellule del fegato che consegue a qualunque tipo di danno, che sia legato ai virus, all'alcol, ad altri tipi di tossici, agli eccessi alimentari. È sostanzialmente il primo passo di sofferenza della cellula epatica che comincia ad essere sovraccaricata di lavoro, e questo si riflette in un accumulo, è come se in una grande fabbrica cominciasse a saltare il sistema di trasporti e sostanzialmente del materiale o dei prodotti si accumulassero all'interno dell'edificio. Se questo processo non viene interrotto, si satura sostanzialmente la cellula del fegato, che può rompersi. Soprattutto perché si innesca un processo di infiammazione che quello si porta verso una malattia, perché il danno delle cellule, il grasso e l'infiammazione inducono quella famosa risposta di rigenerazione che già Prometeo nel mito sperimentava, sì. Ma questa rigenerazione a volte può non essere così efficace e produrre delle cicatrici, né più né meno che le cicatrici della nostra pelle quando subiamo un danno, un trauma, una lesione, e queste cicatrici sono quelle che portano il fegato a una progressiva insufficienza. Ma se noi fermiamo, sì, il danno alla fase della semplice steatosi, tutto è ampiamente reversibile, quindi questo è un aspetto assolutamente importante da sapere. Ma dottor Fagioli, ma a volte noi scopriamo di avere il fegato grasso per caso. Sì, assolutamente, è la cosa più frequente che sì. succede. Invece ci sono dei tratti, ad esempio, chi potrebbe avere il fegato grasso? Ci basiamo ad esempio sulla misura del giro vita e quindi il grasso addominale potrebbe essere un buon indicatore? Sì. Il giro vita è un buon parametro, l'avere una dislipidemia familiare è un ottimo parametro, avere una storia personale o familiare di diabete è un altro possibile carattere, avere una storia personale o familiare di ipertensione arteriosa, ecco, queste caratteristiche vanno a denotare quella che è da anni conosciuta come sindrome metabolica, che è la base, che è anche una forte componente genetica a questo punto, che contraddistingue chi è a maggior rischio per fattori genetici, ai quali può aggiungere dei cattivi compagni come uno stile di vita inadeguato, che possono portare a un'evoluzione del fegato da semplicemente grasso e quindi steatosico a fegato steatoepatitico, che quello certamente rappresenta un passo e un'evoluzione verso una potenziale malattia molto più significativa. 800 24 00 24, è pronto Pietro da Roma che farà la sua domanda al dottor Fagioli, gli risponderemo dopo i mercati, e anzi se Pietro ci aiuta ce li lancia anche, sai che ti dico, gli facciamo fare questo lavoro stamattina. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, ci dica. Allora, io sono 30 anni che ho un'epatite C. Mi sono sempre domandato, la malattia è andata sempre avanti, no? Però io sono sempre stato in una situazione buona e mi domando come fa il fegato, se si fa aiutare da qualcuno, a rimanere funzionante, perché io sostanzialmente mangio tutto, e anche se la mia cirrosi è a uno stadio avanzatissimo, sono curioso di capire come fa il fegato a difendersi. Cuore e denari. Alimentari. Alimon. -5,50 così. Butto. Ai. almeno 10 Monferrarese, Monferidagna, Zuccheri Roma. Il mondo della borsa, degli investimenti, del risparmio l'ha cantato persino Lucio Dalla, pensa tu. Ha tratto ispirazione anche da questo settore, un mondo che per qualcuno è probabilmente affascinante, per altri può risultare oscuro, misterioso, forse anche un po' pericoloso. Opaco potrebbe essere la parola giusta, ed è proprio questo l'aggettivo che è stato usato dalla Consob, l'autorità che vigila sulla borsa, per identificare alcuni strumenti finanziari poco comprensibili per la clientela, strumenti di cui ha sconsigliato la vendita. È un tema importante, si parla oggi della sicurezza dei risparmiatori, noi ne parleremo a Cuore Denari a partire dalle 11.45 nello spazio Investire Informati. Raccontateci se vi è mai capitato di ricevere una proposta di investimento da una banca, da una società, da un promotore, da un consulente finanziario e di non capirci molto. Cosa avete fatto? Avete accettato o no? 800 24 00 24. La primavera esiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo, sempre diverso, sempre ogni mattina, sì, dal giorno prima, dal giorno prima. Con in bocca un gusto amaro che fa schifo, chissà cos'è stato quello che ho bevuto. Sono dal letto e penso al povero mio fegato, fegato, fegato spappolato. E noi torniamo a parlare di lui, del nostro fegato unico, insostituibile, prezioso. Una dieta troppo ricca, lo abbiamo sottolineato, lo mette in difficoltà. Ma non è solo un problema di dieta, altri nemici possono rendergli la vita difficile. Ne stiamo parlando con il dottor Fagioli. Dottore, abbiamo prima dei mercati passato la telefonata di un nostro ascoltatore malato di epatite, certo, C, con cirrosi. Questo ci dice che tra i nemici del nostro fegato ci sono anche i virus. Assolutamente, direi che il caso che ci ha descritto il signor Pietro è emblematico. Ha un virus C da oltre 30 anni, di fatto ci ha raccontato di non aver avuto mai sintomi, ma ci dice anche che oggi ha una cirrosi avanzata e ci è arrivato silenziosamente. E, è chiaro che il fegato è stato un bel lottatore, per oltre 30 anni ha combattuto di fatto da solo contro un bel nemico che si teneva in casa, questo virus C. È chiaro che il signor Pietro adesso ha certamente bisogno di trovare un sistema per eliminarlo, per eradicare questo virus, perché i danni li ha fatti al suo fegato. Ci sono delle novità, ne parleremo a proposito di virus C, buone notizie, come il ministro Beatrice Lorenzin ha raccontato ai nostri microfoni, le sentiremo tra poco, ma prima vorrei approfittare siamo sul tema epatite, di chiedere al dottor Fagioli come si trasmettono questi virus, il virus B e quello C, cioè, sicuramente il contatto con il sangue, dei liquidi, certamente, biologici infetti, ma non solo. Sì, diciamo che il virus B è un virus che più facilmente infetta rispetto al virus C. Sì. Contatto di sangue e liquidi biologici infetti è la via più importante per entrambi. Ovviamente in passato, quando le trasfusioni erano meno controllate, era un fattore di rischio importante. Adesso è soprattutto la condivisione di aghi o strumenti non adeguatamente sterilizzati, quindi piercing, tatuaggi, cure estetiche, odontoiatriche, eseguiti in ambienti inadeguati. Sì. Ricordiamoci che la grande epidemia di virus C in Italia è stata nell'immediato dopoguerra, quando praticamente chiunque ha fatto uso di iniezioni o ricostituenti o antibiotici di qualunque genere, con delle siringhe che in genere non erano di nostra proprietà, c'era un'infermiera che girava per le case, io me la ricordo, bolliva questo, sì, pentolino. E il virus C si inattiva in autoclave attorno ai 130 gradi per 20 minuti. Bollire il pentolino per 5 minuti a scarsi 100 gradi sostanzialmente non li inattivava. Quindi la vera domanda è come abbiamo fatto a non infettarci tutti, se vogliamo. Poi per il virus B in particolare, oggi la prima via di trasmissione sono i rapporti sessuali promiscui non protetti. Via che è molto molto molto più rara, quasi unica direi, per il virus C, e solo in condizioni estremamente particolari. Gigi da Bollate ci scrive, essere portatore sano di epatite B comporta rischi? Se sì, quali? Rimedi o prevenzione? Al 349-238-6666. Allora, intanto vorrei cominciare con la definizione. Abbiamo abusato molto di questo termine portatore sano. Abbiamo visto dei malati molto gravi arrivare con la definizione di portatore sano. Per definire qualcuno portatore inattivo, che è il termine che usiamo oggi, ci sono dei criteri molto specifici e molto precisi. Queste persone difficilmente, anzi praticamente mai, si ammalano in termini di insufficienza del fegato. Però non dimentichiamoci che il virus B è un virus oncogeno che si integra nelle cellule del fegato e chiunque lo alberghi nel suo fegato ha un rischio, seppur piccolo, se la malattia non è avanzata, di sviluppare dei noduli neoplastici nel fegato e quindi merita di essere comunque periodicamente controllato. Dottor Fagioli, tornando alla domanda del nostro ascoltatore, ci chiedevano, la sua domanda era com'è possibile, che dove trova la forza, no, di in qualche modo di proseguire nonostante la cirrosi? Ma allora, anche qui è una questione di definizioni. Noi parliamo di cirrosi e la gente pensa che sia arrivata alla fine della vita. In realtà la cirrosi è una condizione di alterazione della struttura dell'organo. Da lì arrivare all'insufficienza possono passare anche anni. Dipende dall'aggressione che viene svolta a livello del fegato da parte del virus e quanti cattivi compagni ha, perché è chiaro che se accanto al virus c'è un eccesso di alcolici, un eccesso di farmaci, un eccesso di grassi, un eccesso di calorie, un eccesso di tossici, beh, allora è chiaro che ci mettiamo un aggravio di condizioni che renderanno più rapido e più grave il procedere della malattia. Allora, e a proposito di virus C, ve l'ho anticipato, ci sono buone notizie, come il ministro Beatrice Lorenzina ha raccontato ai microfoni di Cuore Denari. Dal 2015 in Italia si sconfigge una malattia per cui si muore, una malattia considerata per molti anni cronica, ma che porta poi alla cirrosi epatica, il cancro al fegato, il trapianto del fegato. Abbiamo 1.400.000 persone infette in Italia e 400.000 malati, e ci sono altre migliaia e migliaia di persone che non sanno di essere ammalate, ma oggi siamo di fronte a una scoperta straordinaria della ricerca scientifica per cui l'epatite C si guarisce attraverso l'utilizzo dei nuovi farmaci e grazie alla capacità di aver avuto in legge di stabilità un fondo ad hoc per l'epatite C presso il Ministero della Salute, noi avremo la possibilità nel 2015 di cominciare il grande piano di eradicamento dell'epatite nel nostro paese. Quindi cominceremo a curare le prime decine di migliaia di pazienti in base ovviamente alla gravità della patologia, e questo non è soltanto una grande speranza per milioni di persone, ma ormai è una certezza di cura. Dottor Fagioli, una vera svolta, inizia una nuova era, possiamo dire così? Ma sì, siamo entrati in un'era straordinaria in termini di prospettive di cura per l'epatite C. I farmaci ora disponibili e quelli che arriveranno nell'arco del prossimo anno, al massimo due, presentano delle possibilità di cura mediamente superiori al 90-95%, una cosa assolutamente straordinaria. E devo dire che io la vivo con certa emozione questo evento, perché io mi sono laureato con una tesi su questi virus del fegato, ho speso gran parte della mia vita professionale in qualche modo a combattere le conseguenze di queste infezioni, e potrei avere il singolare straordinario privilegio di aver visto nascere nel 1989 il virus C e magari di riuscire a vederlo debellato prima di andare in pensione, che è una bella cosa. Dottor Fagioli, questa è una notizia, direi, alla Cuore Denari, no? Perché l'eradicazione della malattia, oltre a restituire salute, consentirà di risparmiare sui trapianti di fegato evitabili e sulle altre cure da somministrare a vita. Sì, direi che ormai sono numerose le evidenze, tra l'altro le prime le abbiamo portate proprio alla luce con il gruppo di Bergamo, che ci dicono che quanto prima si eradica l'infezione, tanto minori saranno i costi sanitari, diretti e indiretti, cioè non solo i costi delle medicine, ma anche i costi delle ospedalizzazioni, ma soprattutto i costi sociali, cioè i costi in termini di perdita di lavoro dovuti alla progressione della malattia. E questo significa che se noi tratteremo in modo appropriato tutti coloro che necessitano di questo trattamento, possiamo aspettarcelo in un medio termine, che io spingerei oltre i 5 anni e forse ben oltre i 5 anni, ma una riduzione delle indicazioni a trapianto di fegato per HCV. L'importante è che tutti noi, sia gli epatologi in primis, ma anche i cittadini, ci ricordiamo che il virus C non è il solo responsabile di malattie o di sofferenza del fegato, ci sono altri compagni da tenere d'occhio, ne abbiamo parlato nel corso della trasmissione, per cui insomma senza lavoro non resteremo. Ecco. Dottor Fagioli, la cura sarà rimborsata solamente ai malati più gravi, ma in pratica quali categorie di pazienti, mi faccia capire bene, avranno garantita la gratuità del farmaco? Ma io credo che questa sia una cosa piuttosto lungimirante, nel senso che si è partiti con un concetto di progressività ma anche di globalità, per cui la terapia non verrà garantita in questa fase iniziale solo a chi ha già una malattia grave, per spiegarci una cirrosi magari con le sue complicanze, ma anche in quella categoria di pazienti che sta evolvendo verso la cirrosi ma ancora non ce l'ha, e questa è probabilmente la categoria che beneficerà di più di tutti dall'eradicare il virus, perché avrà la possibilità di riportare il suo fegato in una condizione di sostanziale normalità. Inoltre verranno trattati quei pazienti che, pur non avendo una malattia in questo momento particolarmente grave, presentano quei fattori di rischio, quelle condizioni di rischio, i trapiantati di fegato o di altri organi o gli immunosoppressi, per i quali noi possiamo prevedere che la malattia abbia un decorso più rapido. Ecco, questa valutazione, come ci ha ben illustrato il Ministro, ci stima che nel prossimo 18-24 mesi dovremmo riuscire a trattare tra i 50 e 60 mila pazienti che hanno queste caratteristiche e saranno quelli che ne beneficeranno di più. Allora, dottor Fagioli, io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie. Sono arrivate tantissime telefonate, anche messaggi chiedendo ad esempio notizie, informazioni su cisti, ad esempio le cisti epatiche, oppure su steatosi non alcoliche, che è il fegato grasso, magari che non vengono trattate dal medico. Noi invitiamo i nostri ascoltatori magari a scriverci, inoltreremo le vostre richieste al dottor Fagioli. Volevamo nella puntata di oggi dare un quadro generale del fegato, sui suoi amici, sui suoi nemici, e non potevamo evitare di parlare di questa svolta per chi è affetto dal virus dell'epatite C. Dottor Fagioli, alla prossima, presto. A presto, anche grazie. A voi un abbraccio. Grazie, buon anno. Naturalmente io intanto mi sono ancora resa conto di quanto mi affascini il termine eradicare. È vero, vero. Mi piace una cosa, sì, e poi la notizia è veramente importante. È vero. Cuore e denari. Dopo i suggerimenti, per chi ha qualche problemino al fegato, ma anche per chi è in viaggio in queste ore, torniamo a Cuore e denari, torniamo con una domanda, quella che vi ho già fatto qualche minuto fa. Vi è mai capitato di ricevere una proposta di investimento da una banca, da una società, da un promotore finanziario, da un consulente finanziario, di non capirci molto? Allora, cosa avete fatto? Avete accettato oppure no? Voi raccontatecelo all'800 24 0024. Noi oggi cerchiamo di capire quando una proposta di investimento può definirsi poco comprensibile o, come direbbe la Consob, opaca, e dunque entriamo nello spazio di Investire Informati. Investire Informati. Cara Nicoletta, questo è il primo appuntamento del 2015. È vero. Chissà quanti ne avremo. Speriamo tanti. Speriamo e molti. Siamo sempre un po' emozionati, perché tutte le volte che uno va a scuola deve imparare delle cose nuove, fare attenzione, misurarsi. Ecco, esatto. Tra l'altro, dopo queste lunghe vacanze, insomma natalizie, ci siamo un po' arrugginiti. Esatto, dici? Per cui oggi abbiamo scelto un argomento un po' abbastanza pimpante per risvegliare l'attenzione generale. Allora, riprendiamo, come vi dicevo, con Investire Informati e il percorso che abbiamo iniziato circa un mese fa e che si sta snodando lungo ogni giovedì, e con il quale stiamo approfondendo con i nostri ospiti i temi che sono molto cari ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici: il risparmio e gli strumenti giusti per risparmiare. Ogni settimana c'è con noi una società, un'organizzazione che si alternano ai nostri microfoni per aiutarci a capire le dinamiche, che sono spesso complesse, degli strumenti di investimento, quindi dai fondi, ai bot, ai BTP, i piani di accumulo, i PAC, le obbligazioni, i conti di deposito, chi più ne ha più ne metta. Nelle prime puntate, gli scorsi giovedì, come ricorderete, la cronaca ha preso il sopravvento e abbiamo commentato